sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. Quante soddisfazioni mi dai! Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rochard. E con l'inglese che parliamo io e te, Nicoletta, non lanciare per carità questa idea. Marchigiano. Perché li traumatizziamo questi bambini. Noi abbiamo le gambe. Vedi, però sei molto intelligente da qualche istante a questa parte. Per cui adesso con tutto questo mare di intelligenza possiamo salutare i nostri ascoltatori. Andiamo a prenderci un caffè. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci. Nella liturgia cattolica oggi Venerdì Santo è giorno di digiuno, ma in generale il venerdì per la Chiesa Cattolica è un giorno di magro, il che significa che ha messo a portare in tavola il pesce e non la carne. Ma c'è chi mangia di magro 365 giorni l'anno anche da tanti anni, una scelta sempre più condivisa. Secondo l'AVI, l'Associazione Vegetariana Italiana, coloro che hanno escluso carne e pesce dalla dieta sono circa il 10% dei cittadini e l'Italia è il secondo stato vegetariano dopo l'India, percentuali in parte confermate dal rapporto Eurispes di quest'anno, secondo cui sono oltre 4 milioni gli italiani che hanno fatto questa scelta. Le motivazioni naturalmente sono diverse, si va dalla sensibilità animalista a quella ambientale, all'attenzione alla salute. Certo. È etica, io amo gli animali e non li mangio, quindi ogni tanto trovo persone che dicono ma io amo gli animali e intanto si fanno fuori se la bistecca di un vitello o la coscia di un agnello. Quindi bisogna che tutti impariamo a essere coerenti con noi stessi. Se amiamo gli animali non possiamo mangiarli. Quando vedo un bambino che firma fuori dalla scuola la petizione per l'iscrizione, poi va a casa e la mammina gli prepara un bel piatto di carne, vedo che insomma non siamo maturi ancora. Così Umberto Veronesi ai nostri microfoni ha raccontato la sua scelta. Adesso tocca a voi, vegetariani, vegani, onnivori, carnivori, 800 24 00 24. Non abbiamo la pretesa di convincere nessuno a diventare vegetariano, onnivoro, carnivoro, ma una cosa è certa, anche se non è indispensabile eliminare la carne per nutrirsi in modo sano, ci sono ricerche che dimostrano che i benefici di una dieta più ricca di vegetali e soprattutto dimostrano i danni derivati da un consumo eccessivo di proteine di origine animale. Allora oggi cerchiamo di fare una valutazione di quello che portiamo in tavola. Quante volte alla settimana, ad esempio, mangiate carne, e mettiamo con la carne anche naturalmente i salumi, gli affettati, e quante porzioni di frutta e di verdura riuscite a consumare in un giorno. E poi, ci sono alimenti che avete bandito dalla vostra dieta? Carne, latte, formaggi, uova, o che invece consumate saltuariamente? Parliamone subito da ora. Chiamate il nostro numero verde, che è verde per l'appunto, 800 24 00 24. Qua in studio con me la dottoressa Luini, medico, scrittore di saggi e di romanzi, scrittrice. Buongiorno. Buongiorno. Non so mai se si dice scrittore o scrittrice, perché scrittrice io lo preferisco, però molti dicono no, facciamo, come si dice? Lei io che preferisco è uno scrittore. Scrittore, però si dice bene. Come si vuole. Intanto grazie per essere qua e bentornata. Grazie. E abbiamo il piacere di avere in linea una new entry, il dottor Mario Bervellieri. Sono certa che vi piacerà molto. Io ho chiacchierato con lui per la preparazione di questa traccia e devo dire che sono molto felice che abbia accettato di essere qui con noi oggi. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, il dottor Bervellieri è un pediatra di base ed è quindi specialista in pediatria e scienza dell'alimentazione e è anche vegetariano o più precisamente vegano, vero dottore? Sì, sì, esattamente, da alcuni anni. Allora, lei è pediatra e quindi mamme all'ascolto, alle prese con bambini che rifiutano di mangiare la frutta, la verdura, bambini magari un po' gracilini o morbidelli, bambino di appetito robusto, inappetenti, approfittatene, ma Nell'attesa torniamo al tema della puntata. Meno carne, più verdura. In questo slogan si potrebbero tradurre i risultati di fior fiori di studi, ma qual è la ragione che giustifica questa preferenza? Perché la carne e la verdura impattano in modo differente sulla nostra salute, sul nostro benessere? All'ambiente ci pensiamo dopo, ma intanto se volete raccontarcelo voi, noi vi aspettiamo. Intanto sentiamo. Consumare carne è un avvelenamento progressivo. Pensiamo alle sostanze inquinanti. Non ci limitiamo a respirarle, ma le mangiamo. Il ciclo è questo. Dall'atmosfera ricadono sul terreno, quindi sull'erba. Poi sono ingerite dal bestiame in forma di erba o di mangimi e accumulate nei depositi adiposi degli animali. Dal grasso animale arrivano nel nostro piatto. Frutta e verdure, invece, sono poverissime di grassi e ricche di fibre. E oltretutto agevolano il transito di cibo nel canale alimentare, quindi riducono il tempo di contatto degli eventuali cancerogeni con la parete intestinale. I vegetali, poi, oltre a contaminarci molto meno rispetto agli altri alimenti, sono ricchi di vitamine, antiossidanti e inibitori della cancerogenesi, come i flavonoidi e gli isoflavoni, che neutralizzano gli agenti cancerogeni, ne diluiscono la formazione e riducono la proliferazione delle cellule malate. Dottoressa Luini, lo riconosce, vero? Questo è un estratto del libro che lei ha scritto proprio a quattro mani con Veronesi, Longevità, meno carne dunque. Andiamo anche alle ricerche, insomma, lo dice Veronesi, lo dite voi nel vostro libro, ma quali ricadute ha una dieta più ricca di verdure per la nostra salute? Beh, pensiamo che scegliere più verdura rispetto alla carne ci porta più sali minerali, più vitamine, più acqua, è una dieta più leggera, in ogni caso più varia, e è molto ricca di elementi che poi noi erroneamente andiamo a cercare nei cosiddetti integratori. In realtà sono tutti nelle verdure e nella frutta, e poi ci sono anche meno grassi saturi, perché quando parliamo di carne pensiamo alle proteine, però ci sono anche i grassi animali. Proteine e grassi animali per noi sono effettivamente un po' più pesanti, senza demonizzarli ovviamente, e danno in particolare all'apparato cardiovascolare qualche impegno in più, ricordando anche i reni, cioè il nostro corpo funziona in ogni caso e ha un suo equilibrio. Però tutto ciò che è animale può dare qualche impegno in più per eliminare le scorie, per esempio attraverso i reni, oppure per la funzione cardiocircolatoria. Un dato interessante che potrebbe convincere a rivedere un po' la nostra dieta aumentando il consumo di frutta e verdura è il fatto che i vegetariani, secondo numerose ricerche, vivono di più e meglio. Sì, esiste uno studio peraltro molto recente che ha in qualche modo anche spiazzato, perché ha dimostrato in modo molto evidente su credo 73.000 persone che scegliere di diventare vegetariani proprio nel primo anno successivo aumenta la prospettiva di vita del 12%, cioè si muore di meno. Chiaro che in particolare in questa trasmissione voi avete sempre cercato di aiutare la gente a capire i dati scientifici, no? Sì. In fondo questi sono numeri, capiamo cosa significhino. Allora, evidentemente per quanto riguarda l'impatto sul sistema cardiovascolare, quindi cuore e circolazione, di un'alimentazione con la carne, in particolare la carne rossa, qualche problema esiste, perché chi sceglie di diventare vegetariano vive di più, cioè aumenta la propria probabilità di vivere in salute, perché c'è una protezione cardiovascolare. Meno forte è l'evidenza rispetto, per esempio, ai tumori. Di questo parleremo tra poco. Intanto abbiamo Steve che ci chiama da Modena, che saluto e ringrazio. Sono subito da lei, Steve. E intanto mi piacerebbe sapere dal dottor Vervellieri, che è pediatra e che ha fatto questa scelta vegetariana e poi vegana, vero dottore? Lei che dedica sempre all'attenzione una grande parte del tempo della visita, perché quante persone, quante mamme le hanno chiesto di recente, se sono aumentate, di trasformare la dieta dei loro bambini, di passarli da un'alimentazione onnivora, da una dieta mediterranea a una vegetariana? Ma guardi, adesso una statistica precisa, dati precisi non ne ho, però c'è grande interesse nei confronti di una alimentazione molto attenta. Le mamme vogliono per i loro figli garantire un'alimentazione la più salutare possibile e quindi quando si affrontano questi temi c'è così una particolare attenzione, una particolare disponibilità. Diciamo che progressivamente nel tempo tantissime persone hanno modificato molto o in parte o comunque in piccola parte la loro alimentazione e io credo che questo sia un fatto molto positivo, ecco. Abbiamo Steve da Modena, poi Luigi da Monza e Francesco dalla provincia di Como. Buongiorno Steve, benvenuto. Sì. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo chiedere ai dottori, insomma, se fare un'alimentazione come sì. dicono loro di frutta e verdura, però associare anche il pesce azzurro sì. e il latte, insomma i legumi e le noci, insomma poteva andare bene perché lei sta correndo, Steve. Sì, anche. Vero? Però sento spesso dire dai dottori che mangiare solo frutta e verdura è un po'. Non va bene, è un po' poco. E infatti oggi proprio col dottor Bervellieri vorremmo anche capire quali rischi si corrono a eliminare tout court le proteine animali senza adeguate sostituzioni nella nostra dieta. E Steve, dottor Bervellieri, fa una domanda precisa. Gli può dare un aiuto che così rispondiamo anche ai tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo messaggi? Ricordo 349-238-6666. Bene, guardi, io farei queste osservazioni. Prima sì. di tutto la letteratura scientifica più autorevole, vorrei citare il WCRF, invitano la popolazione con le loro istruzioni nutrizionali basate sull'evidenza scientifica a basare l'alimentazione quotidiana prevalentemente su un'ampia varietà di cibi di provenienza vegetale. E poi lo specificano cosa significa, cioè cereali non raffinati, legumi, verdure e frutta. E lo stesso WCRF in una parte... Vogliamo spiegare che cos'è questo WCRF? È un centro di ricerca mondiale sul cancro, è molto, molto autorevole in campo nutrizionale, assolutamente indipendente, che basa le proprie istruzioni nutrizionali sulla unanimità dei risultati scientifici, okay. cioè quando non ci sono così contraddizioni o risultati diversi e sono i risultati sono tutti condivisi nella stessa direzione condivisi esce un'istruzione nutrizionale che quindi è molto molto forte perché si basa su dei risultati omogenei unanimi insomma. Quindi in sostanza il WCRF ci invita a basare, a spostare l'alimentazione su cibi di provenienza vegetale e non c'è nulla di male, questo ci dice, anzi ci sono solo dei vantaggi, questo ce lo dice la medicina basata sull'evidenza, anche a spostare totalmente l'alimentazione su un alimentazione di tipo vegetariano o vegano, perché l'American Academy of Nutrition and Dietetics, che è la massima associazione di dietologi al mondo, estremamente autorevole, sì. ci dice che queste diete totalmente vegetali, se ben pianificate... E lo vogliamo sottolineare, esatto, dottor Bervellieri? Certo, se ben pianificate sono salutari e danno benefici per la salute. Cosa significa correttamente pianificate? Significa che quando io passo da una dieta onnivora a una dieta diciamo di tipo vegetariano vegano, non mi devo semplicemente porre il problema di togliere la carne, perché non necessariamente la mia dieta togliendo la carne diventa una dieta vegetariano vegana, cioè lo può diventare, ma non sicuramente ben pianificata. Io mi devo porre in una prospettiva diversa, cioè la dieta vegetariana e vegana è una dieta composta da una ampia varietà equilibrata di cibi di provenienza vegetale e specifico meglio, così sono più chiaro, cioè composta da verdura, naturalmente di tutti i colori e a seconda sì. delle stagioni, di frutta con le stesse caratteristiche, di cereali integrali però, non raffinati come vengono di solito consumati, da legumi come proteine di riferimento o derivati anche dei legumi, dai semi oleaginosi pinoli e frutta secca, un componente questo che faceva parte della dieta mediterranea e che è sparito. Ed è stato pressoché dimenticato. E poi dall'olio extravergine di oliva. Senta, Antonio vuole sapere, e poi passiamo la parola alla dottoressa Luini, che rapporto hanno vegani e vegetariani col vino? Magari lì che si sta per convincere, ma dice però il vino me lo lasciate bere o no? Dottor Bervellieri. In quantità moderata. Beh, certo. non c'è nessun problema, ecco. Diciamo che ci sono degli aspetti che a volte vengono discussi, ma non ha importanza. Cioè il vino può fare parte della dieta vegetariana e vegana senza problemi, ecco. In quantità appunto adeguata. Dottoressa Luini, lei ha sottolineato il ruolo protettivo e preventivo della dieta vegetariana, abbiamo detto che vivono anche di più, sì, meglio, sì, sì. E ha sottolineato l'impatto positivo per l'apparato cardiovascolare, non ha citato i tumori, sì. E dato che lei lavora in uno dei centri di cura oncologici più all'avanguardia, mi stupisce che non ne faccia cenno. Non c'è letteratura? No, ne faccio cenno volentieri, perché per esempio nel caso del tumore dell'intestino è documentato un effetto diretto della carne rossa sulla proliferazione delle cellule tumorali, oppure esistono alcuni studi che hanno fatto pensare a un effetto della carne, in particolare la carne rossa, su una maggiore recidiva dei tumori al seno. È però vero che per informare la gente, certo, secondo me ci vuole anche un po' di onestà, nel sì, senso che noi dobbiamo mettere le persone nelle condizioni di decidere per sé in modo equilibrato e motivato. Allora, io credo che non ci sia un forte bisogno di dire che per esempio mangiare tanta carne faccia venire il cancro, perché è vero, alcune evidenze ci sono, però non tutte queste evidenze trovano attualmente una conferma in ambito oncologico. E allora chiediamoci piuttosto se sia più intelligente scegliere di alimentarsi meglio per una salute globale, quindi anche quella cardiovascolare, o se dobbiamo per forza cercare dei dati che ancora non sono chiarissimi in tutte le patologie oncologiche per poi decidere. Quindi da comunicatore scientifico credo sia più utile dire che esistono alcuni dati in oncologia, alcuni dati aspettano conferma. 800 24 00 24 se volete parlare con noi, fare le vostre domande ai vostri esperti. Oggi volevamo proprio prendere spunto da questa giornata che è di digiuno, ma il venerdì è solitamente dimagro, per riflettere un po' sulla nostra dieta. Quante volte portiamo a tavola la frutta e la verdura? Ci sono tanti ascoltatori che ci scrivono: io queste 5 porzioni di frutta e verdura proprio non riesco a mangiarle. Oppure, come dicono alcune sì, mamme, il bambino non me le mangia. E quindi noi oggi vogliamo cercare di capire come possiamo fare per seguire. Poi ci sono delle scelte etiche. Il professor Veronesi dice: io amo gli animali e non li mangio. Sì. Ci sono invece persone che hanno deciso di togliere alcuni alimenti, alcuni prodotti dalla loro dieta a scopi solamente salutistici. E quindi lì è un altro tipo di motivazione. Comunque cerchiamo di fare attenzione a quello che portiamo in tavola. Luigi, buongiorno da Monza, e poi Francesco dalla provincia di Como. Buongiorno Luigi. Sì, buongiorno Corretta, buongiorno ai suoi ospiti. Eccoci qua. Senta, io faccio una premessa, sono un carnivoro. Sì. Perché ho fatto una scelta anche di qualità della carne, piuttosto che comprare al supermercato, sì, compro un vitello intero, carne bianca, quindi vitello di 6-8 mesi, ma mi tengo 100 kg di carne. Sì. E chiaramente non è che ogni giorno mangio solo carne, lui dice suocero, poco ma di tutto e variare, quindi usa 3 giorni carne, 2 pesce e 1 formaggio, sì, ecco, si varia. La frutta la teniamo per il pomeriggio con il bambino, piuttosto che la merendina gli diamo la frutta. Adesso se mi si dice che la carne fa male, magari se non si sa la provenienza. E infatti noi abbiamo cercato di riguardare un attimino la provenienza e la qualità della carne. Però secondo me escluderla completamente non è che sia opportuno. Io penso per un'alimentazione che... mediterranea come la nostra. Allora Luigi, io penso che sia il dottor Bervellieri che la dottoressa Luini possono dare una risposta, e soprattutto sottolineare che non è che necessariamente uno debba eliminare la carne dalla dieta. Questo ce lo facciamo spiegare dal dottor Bervellieri, che come scelta ha deciso appunto di abbandonarla completamente, tanto che è vegano. Dottor Bervellieri, riesce ad anticipare un po' una risposta al suo commento, perché poi facciamo una pausa e ritorniamo subito dopo? Ma vorrei semplicemente notare questo, non ci sono problemi a un consumo moderato, come diceva anche la dottoressa Luini, di prodotti animali e di carne in particolare. C'è l'evidenza scientifica però che questo consumo deve essere moderato, non può essere un consumo importante, perché l'alimentazione deve essere soprattutto spostata su dei cibi di origine vegetale. Ecco, io vi do solamente un dato prima di fare una pausa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di introdurre 300 grammi di carne rossa fresco conservata alla settimana, ovvero 45-50 grammi al giorno, ma secondo i dati dell'Osservatorio dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, l'INRAN, che conosciamo, in Italia adulti e adolescenti ne mangiano più del doppio e solo i lattanti rispettano il consumo raccomandato di proteine animali. Tra poco riprendiamo a chiacchierare tra di noi e cerchiamo insomma di, noi lo diciamo tante volte, quello che mangiamo ha delle ricadute importantissime sulla nostra salute, è un po' il nostro carburante, non sarà solo lui ma insomma ha una buona importanza, e quindi restate con noi, chiamateci. Cuore e denari. Hai fame? Sì. Avranno qualcosa che posso mangiare. Che cosa vuoi dire? Sono vegetariano. Sai che cosa? Non mangio la carne. Come fai a non mangiare carne? Non la mangio. Niente carne? Niente carne. Bistecca? No. Pollo? No. E neanche la salsiccia? No, no, niente salsiccia, non mangio carne. Eccoci, siamo tornati insieme. Oggi cerchiamo di capire cosa portiamo in tavola, se la nostra dieta è equilibrata. Non ci stiamo dividendo con a favore dei vegetariani contro i carnivori o viceversa. Cerchiamo un pochino di capire che cosa dicono le ricerche e soprattutto di recuperare quelle informazioni che ci permettono di fare delle scelte consapevoli e salutari. Dottor Bervellieri, per par condicio dobbiamo dire che eliminare la carne e le proteine animali tout court dalla nostra dieta non è sempre una scelta salutare, anche se è vero che aumentare il consumo di frutta e verdura fa bene. Ecco, sono due, dottoressa Luini, due concetti diversi, assolutamente. Non è uno contro l'altro. Dottore, seguire infatti una dieta vegetariana, l'abbiamo anticipato, richiede il rispetto di alcune regole, pena incorrere in pericolose carenze, che possono essere altrettanto pericolose. Quali rischi ci sono, e lei nota, nel passaggio dalla dieta onnivora occidentale, mediterranea, insomma in cui sono presenti comunque anche le proteine animali, e quindi la carne, il pesce, oppure le uova, e proprio a quella che le esclude completamente? Come dicevo, bisogna riflettere sul fatto che la dieta vegetariana non è semplicemente una dieta senza carne, ma è una dieta ben equilibrata. Gli errori più comuni sono, per esempio, il sostituire semplicemente e direttamente la carne con dei prodotti che non siano di alimenti di origine animale diretti, come il formaggio. Allora si rischia di sbilanciare la dieta verso un quantitativo eccessivo, magari di grassi saturi o persino anche di proteine. Oppure un altro errore abbastanza comune è quello di eliminare il pesce semplicemente senza porsi il problema della sostituzione degli omega 3 che il pesce apporta in quantità significativa. Alla lunga anche il pesce d'allevamento? Beh, sugli omega 3 sono già arrivati dei messaggi. Su questo c'è molta discussione, perché dipende naturalmente, anche il pesce riflette l'alimentazione con cui viene allevato, e quindi naturalmente se nel pesce d'allevamento vengono inseriti quelli che sono i precursori, che poi sono di origine vegetale, algale, degli omega 3, anche il pesce sarà portatore di omega 3, però generalmente c'è concordanza sul fatto che questo tipo di pesce spesso presenti degli aspetti critici per quanto riguarda la presenza degli omega 3. Poi un altro errore molto comune è quello di non conoscere l'utilità della complementarietà fra cereali e legumi. I cereali e i legumi devono si sposano insieme, devono essere sempre consumati insieme, perlomeno nella stessa giornata, specialmente in ambito pediatrico. A volte invece vengono semplicemente consumati in successione, in giornate successive, e questo non va bene. Un corretto, quindi il legume proteico deve sempre andare a braccetto con i carboidrati, paste, ceci, riso e lenticchie. Esatto. Dobbiamo ritornare a preparare questi piatti che sostituiscono, per chi vuole sostituirla, la bistecca, giusto? Esatto. Andiamo a Walter, che ci chiama da Venezia, Francesco dalla provincia di Como, e poi Battista, lo stavo per chiamare, pam, è caduto. Va bene, Walter, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Io vi racconto in velocità l'esperienza. Ho cercato di diventare vegetariano. Perché? Resistito. Mi scusi, perché? Perché così, per convinzione anche dei ragionamenti che sono stati fatti oggi in redazione. E tra l'altro anche corro ancora, quindi maratone, mezze maratone, eccetera. E ho detto, voglio diventare vegetariano. Allora sono resistito non più di 4 mesi, perché poi di notte mi sognavo di mangiare la bistecca e avevo assolutamente necessità di mangiare carne. Allora ho detto, vabbè, come si dice, il suo corpo che lo chiedeva, eh? Era il mio corpo che lo chiedeva. Allora ho detto, se il mio corpo lo chiede, e mangiamo la bistecca. E allora, però, volevo sapere se a questo punto esiste una dipendenza fisica o psicologica dalle proteine animali, perché proprio mi sono sentito soddisfatto nel momento in cui l'ho mangiata. Adesso la mangio più o meno una volta alla settimana, ecco. Però mi piacerebbe ritornare ad essere vegetariano, certo. E volevo capire se... Grazie Walter, grazie. Il suo intervento è stato prezioso. Dottor Bervellieri, i fumatori ad esempio continuano anche quando smettono a fumare, a sognare di fumare, no? Si dice che si resti fumatore anche se si smette di fumare. E insomma Walter mi ricorda un po' la stessa cosa, insomma lui carnivoro si sognava la bistecca nonostante volesse e voglia tuttora diventare vegetariano. È una dipendenza? Viene descritta da tanti, e non solo per quanto riguarda la carne, ma anche per esempio per i carboidrati, oppure anche per quanto riguarda i latticini. Ci sono persino delle spiegazioni di tipo scientifico. Sicuramente ci sono degli aspetti che giocano un ruolo reale in questo tipo di dipendenza, chiamiamola così, però direi che approfondendo le ragioni poi della scelta vegetariana, che possono essere di tanti tipi, aumentando la propria consapevolezza e nello stesso tempo proponendo senza porsi troppi problemi, ecco, delle sostituzioni dei prodotti di origine animale, si può arrivare col tempo ad accettare continuativamente una dieta di tipo vegetariano. Dottor Bervellieri, il nostro amico Walter di Venezia è un maratoneta. Ci sono la dieta vegetariana. Quali attenzioni devono avere gli sportivi che seguono una dieta vegetariana? Gli sportivi devono avere le stesse attenzioni della popolazione generale, cioè la dieta vegetariana che essi seguono deve essere ben equilibrata. Che sia possibile una dieta vegetariana con la condizione di sportivo ce lo dimostrano nei fatti grandi campioni del presente e del passato, come per esempio Carl Lewis, Edwin Moses, Marco Olmo, ultramaratoneta, eccetera. Anzi, io farei queste osservazioni. In fin dei conti, la dieta vegetariana e lo sport rappresentano un connubio sotto certi aspetti ideale. Perché? Pensiamo per esempio al fatto che durante l'attività sportiva, a causa del forte consumo naturalmente di ossigeno, si producono molti radicali liberi. Sì. I radicali liberi naturalmente possono costituire un danno per il nostro organismo, ma qual è la dieta più ricca di antiossidanti, antiradicali liberi? È proprio la dieta vegetariano-vegana. Oppure nello stesso tempo Questo però non vuol dire, mi scusi, che lo sportivo che mangia proteine animali. No. L'importante è che mangi giustamente una quantità, le famose 5 porzioni di frutta e verdura che contrastano l'azione dei radicali liberi. Certo, assolutamente. Però ecco, dicevo che sottolineavo come alcuni aspetti siano sicuramente significativi nell'apporto di vegetale. Per esempio anche l'acidosi che viene indotta dall'attività fisica e che tende così pian pianino a rallentare quella che è l'attività dei nostri enzimi, la conduzione elettrica, eccetera, si beneficia delle proprietà alcalinizzanti delle diete a base di vegetali. Così diete a base di vegetali sono ricchissime di minerali e vitamine, che sono poi le chiavi di avviamento, certo, i facilitatori dell'attività metabolica. Quindi insomma ci sono diversi aspetti da considerare, ecco. Vogliamo sentire Battista, che era caduto da Bergamo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Battista, bentornato. Buongiorno. Che ci racconta? Volevo portare la mia testimonianza in merito alla cucina macrobiotica. Io 6 anni fa mi sono avvicinato a questo genere di alimentazione, sì, e ho avuto dei risvolti a dir poco devastanti in meglio sul mio organismo e anche veramente a livello emotivo, a livello di energia fisica. Questa famosa zuppa e piatto misto, questo piatto misto composto da legumi, verdura cotta, verdura cruda e 2 cereali e tanto tanto tanto riso integrale. Io è un consiglio che voglio dare a tutti gli ascoltatori. Allora Battista, faccia di più, ci mandi sulla via mail o scriva sul nostro profilo Facebook una sua ricettina, quella a cui lei faceva riferimento. Non è una questione di ricetta, ma una questione di elementi. Sì, certo, però questi prodotti si combinano. Allora, Battista, lei ci scrive una ricetta e noi l'assaggeremo pensando a lei. Grazie per la sua testimonianza. E a proposito di ricette, volevo anticiparvi che nel corso della trasmissione verrà a trovarci uno chef superstellato, 7 stelle, l'avete visto tutti a Masterchef, è il mio preferito. Non vi dico altro, dai, ve ne dico ancora un po' subito dopo le informazioni sul traffico, tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, allora tra poco lo avete sicuramente visto in Masterchef, è superstellato, è il mio preferito. Le sue iniziali sono BB e non è Brigitte Bardot. Potete già iniziare anche a chiamare se volete parlare con lui, 800 24 00 24. Ma intanto noi andiamo a Firenze per parlare con Gianni e poi per Francesco della provincia di Como, e intanto chiedo alle nostre amiche di Cuore Denari che cosa stanno facendo, perché chiamano tutti uomini oggi. Gianni, buongiorno e benvenuto, per carità. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Io sono vegetariano all'85%. Flextariano, come si dice, no? Nel senso che la mia alimentazione è prevalentemente vegetariana, con tanta frutta, tanti legumi cotti in tutte le salse, con delle ottime ricette, e non disdegno magari una volta al mese di andarmi a mangiare una bella fiorentina con qualche bicchiere di vino, ecco, però in maniera estremamente limitata. In realtà io ho 57 anni, ho appena fatto le analisi, sì, e tutti i miei parametri sono assolutamente in regola, sia come colesterolo che come glicemia, come colesterolo buono. E quindi, direi che senza ha trovato la quadratura del cerchio, Gianni. Senza assumere posizioni integraliste. Lui sta effettivamente, dottoressa, complimenti, perché sta applicando il decalogo cui faceva riferimento il collega prima, che non dice, il decalogo mondiale di questo forum che si occupa di cancro, lo dico in modo molto semplice, applica il decalogo e effettivamente fa quello che dovrebbe fare, cioè non significa mangiare, le indicazioni non dicono mangiate solo frutta e verdura, perché non c'è scritto questo, non sono queste le indicazioni, ci vuole equilibrio, scegliete verdure e frutta, scegliete principalmente alimenti vegetali, cioè spostatevi verso gli alimenti vegetali, ma alimentatevi in modo vario. E voglio dare il benvenuto al dottor Luca Voledo, non poteva mancare in questa puntata, il nostro naturopata. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno. Anche perché stiamo dicendo aumentate di più il consumo di frutta e verdura e stiamo entrando in una stagione che ci offrirà dei prodotti straordinari, che proprio sono sembrano studiati apposta per la stagione, per permetterci di passare dalla stagione dell'inverno a una stagione più calda, per liberare dalle tossine. E poi diciamo che la natura ci porta a tavola della verdura delicata che si presta a degli abbinamenti molto, molto sfiziosi, parlo degli asparagi, parlo degli erbette, parlo dell'erba di campo, del tarassaco. Dottora Voledo, sono veramente degli scrigni di virtù. Verissimo, e poi particolarmente indicati anche per coloro, sentivo la vostra trasmissione, che hanno scelto di non mangiare o di limitare le proteine animali, perché contengono dei nutrienti molto, molto importanti anche per chi fa queste scelte alimentari. Il tarassaco, per esempio, è la pianta perfetta, precisa per questo periodo, anzi per le gite fuori porta di Pasquetta, perché sono sicuro che... Sa che forse piove purtroppo. Purtroppo piove. Dobbiamo aspettare il prossimo weekend per il tarassaco, però insomma l'Italia è lunga magari. Ma fiorisce lo stesso e impreziosisce col suo colore giallo tutti i nostri campi, è un'erba meravigliosa che si può andare anche a raccogliere se si sta attenti a raccoglierla nei non campi. Non sul ciglio dell'autostrada, insomma. Ecco, è una specie addirittura infestante, quindi cresce dappertutto, sui margini stradali, nei campi, anche magari in chi ha la fortuna di avere un giardino, se non l'ha irrorato di pesticidi e di erbicidi, si può raccogliere il tarassaco e ne vale la pena, perché è un'erba ricchissima di nutrienti, una fonte di nutrienti persino migliore della maggior parte delle verdure che mangiamo regolarmente. Contiene grandi quantità di vitamina C, anche di calcio e di ferro, appunto pensando ai vegani e vegetariani, molto più degli spinaci. E ha delle proprietà, come giustamente si diceva, di tipo depurativo, quindi è l'erba perfetta per chi vuole sgonfiarsi, è soprattutto un importante diuretico e anche un depurativo del fegato. Quindi si prendono le foglie anche raccolte in zone dove appunto non ci siano stati usati i pesticidi ed erbicidi, e si possono fare con le foglie più tenere delle insalatine molto sfiziose, anche mischiato anche dalle verdure. Oppure insalatina all'erba di campo. Adesso insalatina. Prima che arrivi il nostro BB, vedi che ho buttato lì subito un titolino. Sì. La cicoria matta, per capirci. La cicoria matta. Ecco. Senta, e invece l'asparago? L'asparago è difficile fare persino una graduatoria, non so quale mi piace di più, perché l'asparago è ricchissimo anche lui di proprietà interessanti. Se vogliamo dirne una, è uno dei vegetali più interessanti per la futura mamma. Dai! Perché è il vegetale che contiene, quindi la donna che ha in mente una gravidanza o che addirittura è incinta, è il vegetale che contiene più acido folico, quello che viene dato come integratore per prevenire alcuni danni nello sviluppo dell'embrione, come la spina bifida. Sì. Quindi l'acido folico. Tra l'altro, lei mi parla di acido folico. La mia amica Laura, dottoressa Luini, che non è incinta, anzi ha dei figli grandi come i miei, adesso sta iniziando a prendere l'acido folico. Probabilmente forse vuole, credo, fare prevenzione cardiovascolare. Sì. Quindi è questo acido folico lo associamo sempre alle donne in attesa, è importante, sì, o alle donne che vogliono, desiderano avere una gravidanza, ma in alcuni casi quando l'omocisteina nel sangue, che è una cosa che cerchiamo con gli esami del sangue, è un po' alterata, assumere acido folico aiuta molto per normalizzare e quindi ridurre il rischio per il cuore. Perché l'omocisteina insomma è un piccolo segnale, non dico di allarme, ma bisogna tenerla sotto controllo. Ragionevolmente. Quindi in fondo anche l'asparago ci aiuta a... Ma l'asparago, tra l'altro, se posso vorrei fare una domanda, perché l'asparago secondo me è molto interessante, oltre che buono. Qualcuno mi ha detto che vada cucinato in un certo modo per avere tutti i benefici dell'asparago, è vero? Questo non mi risulta. Ecco, infatti mi sembrava un po' strano, ma siccome mi hanno detto questa cosa, adesso io abbiamo la conferma. Che può essere cucinato in qualunque modo ed è ricchissimo di benefici, contiene sicuramente appunto acido folico, sì, ma un sacco di altre sostanze utili come il glutatione, che è un potente antiossidante, la rutina, che è un flavonoide antinfiammatorio che aiuta anche a migliorare la circolazione sanguigna, quindi a contrastare per esempio i coaguli di sangue. Io so che si cuociono in piedi gli asparagi, ecco, però si cuociono in piedi, ecco, per adesso tenere magari, magari i nostri ascoltatori ci suggeriscono come cuocerli, se si tuffano nell'acqua bollente. Comunque so che devono essere in piedi e le puntine non devono essere coperte dall'acqua. Non so se la mia mamma mi ha insegnato bene, ma io faccio così. Quindi l'asparago ci piace, asparagi e uova, voglio dire, per Pasqua di così. Senta, e andiamo invece a un alimento che, di cui io vado pazza, che è molto depurativo, che c'è in tutto l'anno, ma adesso è un po' il suo momento. L'aci? La cipolla? La cipolla, sì, tutto l'anno va usata perché è ricchissima di benefici, oltre che è capace di regalare sapore a qualunque piatto. Questo momento però è particolarmente interessante perché la cipolla, tra i tanti benefici che ha, è perfetta per il benessere cardiovascolare e, vista l'estate che dovrebbe essere dietro l'angolo, è utile anche per il benessere delle gambe stanche, pesanti. Vi lamentavate che ci sono poche donne all'ascolto, speriamo che questa cosa ne interessi qualcuna. No, un attimo, io non ho detto all'ascolto, Che chiamano. Ho detto che tra i nostri, chiamano il nostro numero verde oggi più uomini che donne, e allora la cosa mi impensieriva. No, ecco subito Natalina da Novara, magnifico. Allora, dottora Voledo, lei diceva le gambe gonfie, ha pensato alle gambe naturalmente a noi donne. Soprattutto un problema fatti femminile, sì, gli ormoni come gli estrogeni hanno un ruolo importante, e le cipolle fanno un sacco di benefici, soprattutto grazie a alcuni antiossidanti, alcuni flavonoidi come la quercetina e la rutina, che sono antinfiammatori e antiossidanti, ma hanno anche altre proprietà, appunto anche loro. Una ricerca molto interessante e recente ha visto che le cipolle hanno delle proprietà antitrombotiche, quindi davvero per tutto il benessere cardiovascolare. Donne, mangiamo le cipolle. Dottor Ravoledo, devo salutarla perché devo dare la linea al GR. Intanto auguri. Auguri. Buon proseguimento, auguri a tutti. Con Natalina andiamo a sentire il nostro GR, torniamo subito dopo insieme, a tra poco. Cuore e denari. Eccoci qua, non vedevo l'ora, sono le 12:10, stiamo parlando di dieta, insomma cerchiamo, guardando un po' le ricerche, con i consigli dei nostri esperti, di dare un po' un equilibrio alla nostra dieta, sottolineando però un aspetto fondamentale, che la frutta e la verdura bisogna mangiarle, le famose 5 porzioni aiutano. Natalina, buongiorno da Novara. Buongiorno. Mi ha accompagnato al GR ed eccola qua per noi. Grazie. Ci dica. Senta, io ho due bambine, una di 5 anni e una di 8. Sì. Alla mattina fanno colazione con latte di soia. La dieta è basata principalmente su legumi, cereali integrali, verdura, frutta e ogni tanto la carne. Nei miei minestroni mettiamo anche del tofu, dei semi di lino, dei semi di girasole e quant'altro, e un po' di frutta secca. Però voglio sapere, è una dieta che può andare bene per le bambine che devono crescere, e come la mettiamo con la vitamina B12? Grazie, e molti ascoltatori mi scrivono anche come la mettiamo con il ferro. Dottor Berveglieri, io so che lei dovrebbe fermarsi qua altre due ore, ma cerchiamo di dare una risposta mirata alla nostra Natalina e poi torneremo a fare con lei una puntata sulla dieta dei nostri bambini. Dottore. Va bene, ascolti, dunque, per quanto riguarda la prima ascoltatrice, Natalina, che poneva un problema relativo alla vitamina B12, sì, allora c'è da dire questo: la vitamina B12 è contenuta esclusivamente nei cibi di provenienza animale. In realtà nessun animale produce la vitamina B12, tutti siamo dipendenti dalla vitamina B12 prodotta da batteri e da funghi che vivono nell'ambiente. Gli erbivori la mangiano direttamente perché consumano erba senza naturalmente lavarla, e i carnivori, mangiando gli erbivori, hanno la vitamina B12, quindi in qualche modo, direttamente o indirettamente, tutti siamo dipendenti di questi batteri, da questi batteri. Ovviamente quando noi abbiamo un'alimentazione che esclude totalmente Mm-hmm. I cibi animali, e come è ovvio, prevede cibi vegetali ben lavati e ben igienizzati, quindi senza questi apporti di vitamina B12 dall'esterno, la vitamina B12 la dobbiamo garantire. Questo è effettivamente molto importante, perché noi abbiamo delle scorte, ma che possono essere anche possono garantire il fabbisogno anche per mesi o persino anni, ma alla lunga le conseguenze possono manifestarsi e possono essere conseguenze molto molto serie. Quindi chi effettua una dieta di tipo vegano, quindi che esclude tutti i cibi animali, ma non era questo il caso delle figlie di Natalina, deve assumere vitamina B12. Va assunta. Comunque anche quando il consumo di cibi animali è molto ridotto, vale la pena precauzionalmente di inserire la vitamina B12. Perché? Perché noi non possiamo essere sicuri nemmeno del, quando, ripeto, l'apporto è molto ridotto, è saltuario, perché noi non possiamo essere sicuri della corretta alimentazione di quell'animale. Certo. Che abbiamo, dottor Bervaglieri, allora le bambine di Natalina sono piccole, sì, e ci sta dicendo faccio bene, le sto indirizzando ad una dieta vegetariana. Guardi, a Natalina intanto di scriverci, perché il dottor Bervaglieri potrà darle delle informazioni un pochino più dettagliate, ma ci faccio una riflessione, sì, generale un po' sintetica. Ecco, ne approfitto perché proprio recentemente ho presentato a un convegno una relazione proprio sull'accrescimento dei bambini vegetariani e vegani, e quindi questo mi ha dato l'occasione di una rivisitazione in tempi recenti di quella che è la letteratura. Allora, la letteratura ci propone in tutti i centri dove sono stati fatti questi studi, non sono tantissimi, ma comunque ci sono degli studi anche ampi e significativi, ci propone una situazione di assoluta tranquillità, cioè i bambini vegetariani e anche i bambini vegani crescono come i loro compagni onnivori. Dottor Bervaglieri, in qualche caso c'è una maggior tendenza a un peso ridotto, ma mai ci sono delle differenze significative rispetto all'altezza. Dottor Bervaglieri, diciamo alle mamme che ci stanno scrivendo molti messaggi di scrivere all'indirizzo Cuore Denari, e approfitteremo della disponibilità del dottor Bervaglieri per darvi una risposta. Grazie dottore, alla prossima. Grazie, auguri a voi, e grazie a tutti i radioascoltatori. Non è a una, ma ben sette. È il mio preferito, ve l'ho anticipato, e le sue iniziali sono BB. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere Chef Barbieri, Bruno Barbieri. Ciao Bruno. Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ma sai Bruno che i nostri ascoltatori hanno subito indovinato, io ho detto è il mio preferito, BB, 7 stelle, bam, subito, Masterchef. Siamo molto contenti di stare con te, e innanzitutto abbiamo subito bisogno, questi benedetti asparagi, Bruno, come li facciamo? È vero che si cuociono in piedi? Beh, si cuociono in piedi, si possono cuocere anche, diciamo, sdraiati nell'acqua a vapore, non ci sono problemi. L'importante è se li cuociamo in acqua, naturalmente, perché non debbono perdere il loro colore, l'acqua va salata, dobbiamo avere una bacinella con acqua e ghiaccio da una parte per raffreddarli immediatamente, per farli tenere. Insomma, ci sono. L'importante, sai che cosa? Nelle verdure a me piace non cuocerle troppo. Anche sugli asparagi, che non so, mi piacciono leggermente appena appena un po' croccanti. Poi sai, in questo periodo è top, no? Siamo vicino a Pasqua, c'è di tutto, carciofi, fave, piselli, asparagi. È un mondo verde, oggi mi sento molto verde. Ah, mi piace. Franco ci chiama dalla Sardegna, non dico la città, la dice lui perché per me ha troppe S. Buongiorno Franco, vada. Buongiorno, grazie. Da dove chiama? Chiamo da Sassari, chiamo. L'ha detto lui, va bene. Franco, lei ha il piacere di suggerire una ricetta a Bruno Barbieri, che voglio dire, non capita a tutti. Quindi vada con la sua ricetta, perché dalla regia mi segnalano che lei ha una super ricetta da fare con gli asparagi. Esatto. Vada. Sì, noi praticamente usiamo gli asparagi, quelli di campagna, non quelli coltivati. Sì. Ok, ne mettiamo per dire un mazzetto all'interno della carta stagnola, condito con olio, sale, due fettine sottili di limone, appena appena di pepe, si chiudono e si mettono in una padella per 10 minuti. Sì. Così a questo punto non perde la proprietà l'asparago, rimane tutto all'interno. La stessa procedura si fa con i carciofi fatti sottili, naturalmente tolto tutto il verde, lasciando il cuore del carciofo. Sempre chiusi in questo pacchettino? Questo sempre con la carta stagnola, chiusi naturalmente, con lo stesso procedimento. Garantisce il sapore, cioè, il gusto, la croccantezza. Bruno, hai visto, ecco, che ecco. Franco ti dà addirittura una ricetta, perché bravo, questo Franco, capita, ecco, a Cuore Denari, c'è uno scambio. Questo è il meraviglioso esempio di quanto la gastronomia in Italia è una cosa straordinaria. Abbiamo visto questo ragazzo, questo signore da Cagliari, che ha un'idea. Questa tipologia di cottura si faceva un tempo quando si metteva, anziché in padella o nel forno, si metteva sotto le braci, sotto la cenere. Quindi è un'idea geniale, buona, tutto il sapore rimane lì dentro. Bravo. Bravo. In Italia siamo gastronomicamente molto acculturati. Senti Bruno, io ho detto chef, ma anche scrittore. Dobbiamo aggiungere, e qua io ho la dottoressa Luini, che è medico e fa lo scrittore. Insomma, fate tutti dove questa penna piace. Sì, io ho scritto questo ultimo libro, Via Emilia, Via da Casa, di Da Rizzoli. È un racconto di uno chef in viaggio, dove ho così unito circa 80 ricette che raccontano un po' la fusione tra il nostro paese, altri mondi e altre culture. Mi piace questa idea. E poi i libri di cucina, alla fine, i ricettari debbono essere, non c'è, cioè, chi li compra, non devi dire ok, compro il libro di Bruno Barbieri e rifaccio la ricetta. Io ti do uno spunto, poi deve essere la tua fantasia, deve essere la tua voglia di esprimerti, puoi aggiungerci una cosa, puoi aggiungerci un ingrediente, un sapore a tuo piacimento. Questa è la storia, questo è come si legge un ricettario di cucina. Senti, dato che insomma sei uno chef in viaggio, vieni qua una volta in carne e ossa, che io e Deborah siamo delle tue fan, così facciamo le foto, ci abbracciamo un po'. Molto volentieri. Ecco, io vorrei dire questo, perché adesso ci avviciniamo alla Pasqua. L'importante è la gente parte, viaggia, fa, ma vuol dire, quando andiamo a cucinare oggi, per questi giorni, scegliamo delle cose giuste, voglio dire, delle cose buone, di piccoli produttori. Diamo anche, secondo me, dobbiamo essere noi che andiamo a fare la spesa tutti i giorni e dare la possibilità a questi piccoli produttori di esprimersi, no? Diceva bene lui, gli asparagi, quelli non coltivati ma quelli selvatici, una cosa straordinaria. Oggi ci sono gli strigoli, ci sono i radicchietti di campo che stanno venendo fuori, quelli selvatici, ci sono un sacco di cose bellissime. Con un pelo di fantasia abbiamo risolto la giornata, abbiamo risolto il pranzo e la cena. Senti Bruno, anche noi ti abbiamo preparato una bella mystery box. Ah, dai. Però noi siamo buone, mettiamo frutta e verdura di stagione e ci fidiamo di te. Tra l'altro ho letto in alcune interviste che per te l'insalata di radicchio è la vera prova per uno chef. Sì, perché i radicchi sono finiti come sempre nel dimenticatoio di tutti, e in Italia ce ne sono un sacco di varietà, la rosa di Gorizia, insomma i radicchi, il primo taglio, ce ne sono, vabbè, il trevisano, quello che conoscono tutti, insomma ci sono un sacco di varietà. E in cucina, perché voi, perché sono un po' la Cenerentola, sono come la cipolla, sono amari, piacciono poco, invece secondo me sono di una bontà, con una lacrima di aceto rosso, perché attenzione, l'insalata non si condisce con l'aceto balsamico, posso dirlo? E devi dirlo. Con aceto rosso o con aceto bianco? Perché l'aceto balsamico è un aceto cotto, è un aceto che va bene, che ne so, per le verdure cotte, per le patate, per le carni, per... Sull'insalata è un aceto pesante, proprio come peso specifico, quindi bruciacchia un po' Vedi, la dottoressa Luini, lei sbagliava, metteva l'aceto balsamico. No, vabbè, poi uno io sbaglio un po'. No, tutto. Perché la dottoressa Luini è un ottimo medico, un eccellente comunicatore, una scrittrice straordinaria. Io dico che crea dipendenza, ma devo dire che in cucina è molto scarsa. Molto, molto, molto scarsa. Ma non è vero, non no, credimi, Bruno, è un po' scarsetta. Vabbè, pazienza, però non è che si può essere tutti perfetti, no? Meno male. Bruno, tu hai citato la cipolla. Sì. E ne abbiamo parlato con il dottor Luca Voledo e noi l'abbiamo resa star perché dal punto di vista della salute è veramente quello che ci serve per una serie di ragioni, depurativa e proprio per la stagione. E tra l'altro tu hai anche scritto un libro, no? Io ho scritto un libro, Cipolle buone da far piangere, perché poi io sono nato in un paese che si chiama Medicina, che è molto famoso per la cipolla, perché siamo grandi produttori di cipolle dorate, sì. Per quelle che hanno quel colore, non è la cipolla rossa, neanche la cipolla bianca, che ha quel colore un po'... da bionda, come... sì. Esatto, un po'... la bionda. Mm. Ed è famosa nelle terre, nella bassa bolognese, è famosa per questo. E ho dedicato proprio un libro alla cipolla, perché ha dei ricordi straordinari, a parte che fa bene. Mm. Però ai cuochi la cipolla piace, vero? Cioè, si presenta un po', si presta dei piatti un po' particolari anche, pur essendo così povera. Davide Oldani, per esempio, fa un grandissimo piatto che è una cipolla caramellata. Sai che l'ho assaggiata? Ho avuto il piacere di assaggiarla. Sì, mi piace molto. Adesso aspetto di assaggiare la tua di cipolla. La cipolla è uno di quei prodotti che si sposa molto bene con un sacco di cose, col pesce, con le uova di salmone, col caviale, con... adesso dico delle cose molto nobili, però anche perché lei è la vera Cenerentola della cucina, ma sta dappertutto, nei ragù, nei soffritti, nei ripieni, entra dappertutto perché c'ha quella sua acidità, c'ha quella sua dolcezza, c'ha quelle sue, quel suo quid in più che molti altri prodotti non hanno. Guarda, se rinasco, rinasco cipolla, perché mi sembra che sia perfetta. Filippo da Catania vuole parlarci proprio di cipolle. Buongiorno Filippo. Buongiorno, allora io ho preso l'abitudine di comprare le cipolle più piccole possibile perché io non so se erroneamente mi sono fatto quest'idea, che mi sono fatto, ho letto, prende la cipolla, va consumata subito e non va conservata la parte rimanente perché ha l'effetto come se fosse una spugna per i batteri e quindi ha una notevole capacità di assorbimento. Infatti c'erano anche dei vecchi rimedi, sì, sulla broncopolmonite, che si teneva una cipolla vicino sul comodino, qualcosa del genere, perché sì, aveva questa capacità di assorbire come una spugna batteri e cose varie. Quindi allora, la cipolla tagliata e lasciata lì. Sì. Allora Filippo, dottoressa Luini, l'intervento di Filippo viene commentato da lei e da Bruno Barbieri. Beh, la cipolla ha dimostrato di avere una capacità in realtà battericida, cioè è capace di uccidere i batteri, ha capacità antitumorali. In realtà è chiaro che ogni verdura, quindi compresa la cipolla, vada consumata abbastanza rapidamente perché altrimenti perde le sue proprietà e credo anche una parte del gusto. Approfitto di questa rapida risposta per dire che cuocere poco le verdure, come diceva prima Barbieri, è un modo per conservare le proprietà antitumorali delle verdure. Quindi sempre al dente e poi tuffatele, se ce la fate, nella bacinella di ghiaccio, che è un bel da fare, ma anche insomma Bruno Barbieri dice che per mantenere il colore e la croccantezza si fa così. Bruno, cipolle piccole quindi? Beh, sai, cipolle dipende da che tipo di lavoro vuoi fare, che uso vuoi fare della cipolla. È chiaro che se le vuoi fare caramellate con un po', che ne so, di zucchero e aceto, i chiodi di garofano, le stecche di vaniglia e quello che ci va, le piccoline, le borrettane sono perfette. Però guarda che anche una cipolla, devo dirti la verità, spaccata, pocciata nel sale, mangiata con due tagliatelle croccanti, non è male. Magnifico, meraviglioso. Questa mi piace, questa secondo me riusciamo perfino a farla io e la dottoressa Luini. Un abbraccio a Bruno Barbieri, tanti auguri. Tanti auguri a tutti quanti voi e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie, ci vediamo. È vero che viene a trovarci, ci molto conto, volentieri. Va bene, grazie, un abbraccio grande. Allora, io vi ricordo, se ho ancora, Pietro Lacorte mi ha messo un po' di musichetta sotto, così la voce viene più carina, accogliente. Volevo ricordarvi la nostra iniziativa Cuore, Denari e Vitali, che piace anche molto alla dottoressa Luini, essendo uno scrittore. Sì, sì, sì. E potete diventare anche voi scrittori, come andando sulle pagine di Cuore e Denari e rileggendo l'incipit. Ce n'è uno di cuore, uno di denari, dovete inserire le due parole che però io non mi ricordo più: ginocchio per il cuore. cuore e pneumatico per i denari. Uff, ce l'ho fatta, grazie a Laura Vanossi che mi ha suggerito, a Pietro Lacorti in regia la parte tecnica, a Camilla Tomadini che ci sta salutando con la sua bella frangetta tagliata di fresco, alla dottoressa Luini. Grazie. E che dobbiamo fare? Devo dire che ci sentiamo lunedì. Intanto pensateci, buona giornata. Cuore e denari.